mettiamo la muffa, è una cosa un po' fastidiosa, per non potersi muovere è una costrizione troppo, che non eravamo abituati, ne fanno, quando tu pensi di rispettare l'ambiente c'è qualcun altro che invece se ne frega e crea disastri, poi già ne paghiamo le conseguenze un po' tutti. Ora niente, aspetta il contraccolpo che ci arriva tra un po', tipo uno tsunami, che rastrellano un po' di soldi dappertutto e ci spremono come limoni. Ora niente, ancora niente, vedrai cosa succederà tra un po'. Altro che guerra, questa è una guerra combattuta a colpi di soldi, sarà un casino un po' per tutti, eh. Ok, va bene, buon proseguimento, ciao Eugenio. Buongiorno, ciao, ho sentito che eri con Babbo prima. Eugenio, senti qua la modulata, gamba. Buongiorno. Io sono da presto, dai, sveglio, presto, alle 5:30. Ciao anche a Riccardino, avanti. Ciao Luca, mi sono appena svegliato, ciao Luca, sei un genio. Tipo 5 minuti fa. Beato. Vabbè, mi sono addormentato presto comunque, non perché. Magari mi addormento tipo mezzanotte, l'una, 1:30 così magari. Faccio tutta una tirata. Mi addormento presto. Mi sa che alle 10:30 ho già addormentato. Vabbè. Già, poi già recuperiamo di pomeriggio. Dove sei oggi? A Porto Torres? Sei un po' basso, ti ascolto. Non so come mi ascolti tu. Ti ascolto un po' basso. Via. Adesso andrò a fare un bonifico, perché sto prendendo un baracchino nuovo. Le foto che mi ha mandato sembra nuovo. Un 3006, Superstar. Come? Lo so. Sento verticali questo, va bene. Non è che devo andare in capo al mondo. Pensate che funzioni bene, che sia nuovo, capito? Sì, ci sento, ho cambiato dal baracchino normale alla stazione base. Eia, lui hai detto un 3006? No, sto acquistando un 3006. Ecco, credo, non si può stare 3006. Sì, si può stare 3006 FM, sì. Ho capito che... No, conoscevo solo il 3.9, 4.9 e basta. No, vorrei prendere la fregatura perché prima mi ha chiesto un pagamento Poste Pay e lì sicuro al 1000 per 1000 ti fregano. Però io gli ho detto se vuoi ti faccio un pagamento PayPal. E lui mi ha detto che. Cioè, mi ha detto. Ho detto uno o l'altro, o Poste Pay o bonifico bancario. Sicuramente con il bonifico bancario vado sul sicuro. Ma cosa per un 3.009? Sì. Praticamente mi viene 80, 90, 95 euro. Ho fatto... Vai, è così un po'. No, ok. Cosa, Riccardi? C'è uno che sta vendendo un 3.009 a Ottieri. No, l'ha già venduto. Ah, l'ha già venduto, sì. Sì. Ebbene, Natalino, cuocuomane. Sei abusivo, cuocuomane. Come? È vero, ciao Riccardi, buongiorno. Ciao Natalino, buongiorno a te, sono appena svegliato. C'è un'ora che sono sveglio, ho portato il cagnolino a fare la passeggiata, sono andato a comprare il pane, bubu. Chi dorme non piglia pesci. No, ho fatto oggi ho fatto tutto babbo perché mi sono addormentato molto tardi ieri sera. Io riprendi un che? Poi sì, c'è anche io, già vabbè. Anche lo dice. Vamos a trenda. Cosa fare la connessione alla macchina di Gianni, cavolo, sto chiedendo. Il 48 Plus, 6 fili, un casino, mamma mia. Non ce la fa. Ho trovato l'audio. Però poi ci vuole la ricezione, la trasmissione, una serie, no? E poi ci vuole l'up down. Col tester. Ti devi mettere col tester e controllare. Io le ho trovate tutte le connessioni. E Natali, col tester. La portata l'ho trovata. Non è facile, no? non è semplice. A me non è semplice, c'è a 4 tanto quanto. Non ci sono questi fili rigidi, guarda, per carità, una pigiale ci addrizzano. E oggi ci sei ancora? Ah, ok, mio Dio. No, comunque ti sento già. Io lo sento. No, io già lo sento, mi arriva a 5 e mi arriva a 4. Sì, vabbè, tu sei più zona magari diversa dalla mia. E non lo sento, ma di 40 lui mi sente, boh, non lo so. Ha detto che già ti sente. Sì, vai, c'è un antenino piccolo, boh. Già, vabbè, e beh, Natali, dormito sei? Sono dormito. È vero. Mi mappo, mi stava assinando mamma, ho fatto piattami questo, ma prendi asciugamano in bagno, stamattina glielo ho piazzato. C'è mia moglie che mi sta rompendo le scatole da mattina a presto, e un po' parlo con lei e un po' con te, perché questa qui si mette in mezzo e ti soprammodula. Hai finito con c'è? Vuoi che ti faccia squillare il telefono? Con c'è? Dicendo tu. Ti faccio squillare il telefono di notte, non dormi più, Ascolta, tu sei fregato, il mio numero non ce l'hai e non puoi telefonare. No, glielo do io alle 2 di notte, così la svegli. Dammi il numero, Natali, passami il numero di Costa, così se ti rompe la chiamo alle 2, alle 3 e non la faccio più dormire. La chiama, manda il numero. Se l'immagini che sovrammodula a te, questa qui, via. Porcalità. Mi sta dicendo tutte quelle cose brutte, mica. A me! Davvero, quella lì. Adesso stanotte gli faccio squillare un telefono alle 2 di notte, così non parla. No, così ammazzo a lui. E poi lo do anche a Luca. Lui alle 3. Passo il numero a Riccardino che ti telefona alle 4, tu non dormi tutta la notte, così non parla. No, ci sarai. Ma io lo stacco. Natalino, mi senti? Signora. Questo è Baracchino di Gianni, provo il microfono mio, capito? Gebe. Gabagaba. Attenzione, Natalino, alzalo, se tu ascolti lui, gabagaba. Sì, già ti ascolto. Riccardino, bene, mi ascolti? Sì, 9 su 10, compiti positivi. Ho capito. Giovanni, questo qua è... A me non mi piace questo baracchino. 48 plus. Non passaggio tu, io un po' terribile. Cazzo da me, la radio nell'altro è in mezzo. Mi avevano dato lo schema sbagliato e non riuscivo a farla andare. La mia ci ha fatto tutto. Ma giusto no, ma non credo già alla radio a Giuditta. Giubilato, quando stavo parlando con te, te lo ricordi, stavo toccando col dito e il filo e il contatto. Capito, non era ancora saldato. Riccardino, fa un passaggio. Non c'è più Riccardino. Non so come fare questo cavolo di connessioni, cavolo. Non lo so. Chi è? Riccardino, tu sei? Sì, sono io. E questo baracchino mi arrivi 9:30, accendi tutti i LED. Bene. Molto bene. Cavolo, è migliorato dal giorno alla notte. Poi se metti un amplificato e una radio magari più spinta, vai alla grande. Secondo me ti conviene, mi col 3009 di babbo, li metti l'MB più 4, l'MB più 5, li fai la modifichetta e esci una scopettata. Ma veramente bene. E là ci sono quelle blu. Vediamo. Comunque grazie, adesso vedo come funziona meglio, voglio vedere se mi arriva il microfono prima con la stazione base come esco. E poi se posso fare ancora il meglio, con il passaggio. Certo. L'MB più 4 a lui perché c'ha i toni acuti, i toni non gli servono a lui, l'MB più 4, c'ha la voce acuta a lui. Ce l'ha anche da fissare, hanno ordinato di nuovo l'MB più 5. Vabbè, se ti danno l'MB più 5 metti i toni a zero, tanto tu bisogno di toni non ne hai, che è la voce bianca ancora, diciamo così. Ok, sì, l'altra volta l'avevo messo a 10 e non la vabbè. Se li metti a 10 ti va la voce fine e ti fa, invece tu li chiudi i toni e vedrai che esci bene. Se c'è il 3009 gli metti le MB più 5 o il 4, lo vedi schiappettando. Al baracchino poi chiamato, infatti ai toni alti, infatti cambia proprio la voce. È per quello che te l'ho detto, che non avevi bisogno tu delle MB più 5. Siccome le MB più 4 non ne ha toni, c'è solo il volume e basta. Sì, lo so, però questo, se forse si servivano, e quindi avevo preso all'inizio le MB più 5, quella ha detto che poteva ordinare solo un MB più 5 da acquistare. Se c'è l'MB più 4 lo paghi pure di meno. Questo è un MB più 4, me lo vedi. Però è il baracchino che non amplifica molto qua, perché l'omologato non si può toccare questo. No, che non mi sono sbagliato. No, ma tanto Tu Garie, che fai? Cerco di attaccare il vostro microfono, là. Stai azzuffando il microfono. Sì, perché lo spinotto del mobile, com'è uguale. Adesso mi sto prendendo la posizione di questo qua che ha 5 fili. Capito? Però, sto guardando. Adesso vedo un po'. Adesso mi prendo questi qua e colori. Giallo. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'è giallo, rosso o bianco? Il giallo è la radio. E Eugenio, ci sei ancora? Sei superato a Natalino. Perché è un cuocuomane. È un cuocuomane quell'Eugenio. Adesso ti sento anche come Luca, no? Tutti si compiti positivi. E ho capito. Natalino, ti sta chiamando Eugenio. Non lo sento, Ugino, non lo sento. C'ho troppo QRM. Perché mi arriva basso, capito là. E se non supera il QRM non lo sento. Oh, Eugenio, ma sei a Sassari ancora a Porto Torre? Ah, ho capito. E comunque mi arrivi sempre forte. La zona perché ti ha aperta verso di te, verso Porto Torre. Ma dove vai, Natalì, ti sta chiamando tuo nipote. Sì, qua, non mi sente. E cos'è, non sente neanche a me? Cosa hai detto? A Natalino, a me sente, adesso si è allontanato. Ecco, guarda che si è allontanato, vai. Vai, che macchinata! Non ho capito, Luigi. Cosa? Non ho capito cosa hai detto. Che macchinata, Natalino, ci sei ancora? Sì che ci sono. Stava chiamando tuo nipote. Stava chiamando? Tuo nipote, tuo nipotino, Eugenio. Ah, Eugenio sta chiamando. E non lo sento, digli. Quando c'è QRM non c'è la Riccardino. Ciao, Riccardino. Ciao. Mamma, non mi saluta nessuno. Io sì che ti saluto, sarei voluto venire anche a incontrarti. Sarei venuto ad incontrarti perché c'è a Sassari e Roberto non vuole troppe persone al lavoro suo. Non è male, sta lavorando. Sì, lo so, perché l'altra volta ero andato per incontrarlo e poi erano venuti Marco, gli ha venuto Claudio, poi c'era venuto Giovanni Bracco e tutti altri. E ho capito. Ma dell'Arri? No, sì, te l'ho chiesto perché sapevo che avevi anche il pespone. Eia, adesso ci siamo da casa più forte, perché la macchina sta solo un po' un rumore e la radio si sta alterando, è più brutta. Beh, è vero. Qua sono tutti quei cuocuomani. Cosa, Luca? Tutti quei cuocuomani che fino hanno fatto. E c'era Eugenio mica parlando con coso, ma io non lo tiravo fuori, io dice, boh, troppo QRM, quando ci passo non ti tiro fuori se c'ho QRM. E Riccardino si è allontanato, c'aveva un difetto alla macchina, penso. Aspetta, aspetta, un tipo, dai, che mi deve dare le condizioni del microfono, quindi glielo faccio a Gianni. Se no rifletto il mio, si usa il mio provvisoriamente. Perché è me? Sì, è vero. Bel tuner. Cazzo col 7B, Gaeso FT7B, Turner più 3, SX200, il Rosmetro. Già, poi questo deve essere un... vediamo. HP 500 questo. SX200 marcato CE per caso, ma lo sai? Non ho capito, cos'è tu Natali? Sai, se l'SX200, quel rosmetro della Diamond, è marcato CE. È un marcato la foto, certo che è marcato CE. Bisogna chiederlo a Giulio per essere sicuri, perché se io me lo compro e non è marcato CE, no, non rubo i grattami. Sto dicendo che è marcato CE, marcato CE. Non vuoi, te lo prendo io, non vuoi? Dammi 50 euro, nuovo nuovo, non vuoi? Pietro lo prende, marcato CE. Vanno là giù, ci aspetti, perché mi devono entrare i soldi, già te lo dico, se ce l'hai me lo vendi a me. Certo, ma ce l'ho, ti mando la foto, aspetta. Ci ha modificato, nel senso che gli ho messo i LED, e attacchi lo spinotto dietro, ti do anche lo spinotto e è illuminato. Gaba gaba. Aspetta, ho dato le foto, controlla su WhatsApp. Adesso ce l'ho attaccato al caricabatterie ed è lontano il mio telefono, dopo lo guardo. Vabbè, comunque ho marcato il cielo. E che è? Cambio! Vabbè, finito, aglio, non c'è. Cabagaba! Cambio! Ah, tu già finito, hai la maglia? No, io ci faccio la notte. No, ho capretto, ho capretto. Sì, se il commissario Montalbano. Con chi ce l'hai lui? Con il suo, il commissario Montalbano. Allora, che vuoi, se ci parlano qualcuno che non sento? No, no, negativo, gaba gaba. Adesso lo sento, Eugenio. Ciao, Eugenio. Ciao, zio Natali, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Sempre basso ti sento, sempre basso, aumenta Vlad, disturba tutto Sassari, ma fatti sentire. E vorrebbe alzata 2-3 metri questa antenna, spunta solo un metro dal tetto, è ben bassa e oggi, se no già te l'avevi sentito, bene. Vabbè, dovrebbe bene che mi ascolti oggi. Ho voglia. Ok, però c'ho... Non so se stai erogando meno fatto, molte volte quando sale l'ago, devo controllare di nuovo. No, ma stai uscendo bene, Lu. Sì, ma vuoi capire una cosa, in base a quanto sale lo smitter, no? Ti faccio un esempio. Dai watt, siccome adesso mi sale a 9, non vuoi che stanno meno watt, stia succedendo qualcosa, boh. Comunque a me arrivi sempre bene, è forte anche. Ma no, il punto già sta arrivando bene. Purtroppo ho anche pochi watt io a disposizione, con 3 watt dove vuoi andare, e l'antenna bassa, da nessuna parte arrivi. Secondo me c'è anche una cuocuoma in Natalia. Ho spunta un metro solo dal tetto, è bassa come antenna. Se gli metto un paio di metri di tubo sotto e l'alto di 2 metri, la vedi a vedere schiappettando. Sì, perché Marcolino esce forte lo stesso e c'ha la stessa antenna mia, solo che è più alta. Allora, prima, a Marcolino è poco male. Aspetta che devo mettere mano al computer di Concetta, che sta dando problemi. Prego, ecco, se vuoi, è rimasto qualcuno sul 10. Siamo qua. Ah, bene, allora parli. Sto per salire a Sassari, cambio. Cambio. Sì, ha fatto? No, ma che... prima, anche molto prima. Con chi ce l'hai, Riccardi? Con il signore che mi ha chiesto, che mi ha detto che mi sono svegliato presto, ho detto che mi sveglio anche anche prima. Chi è questo qua, lo sento? Non lo so, mi può dire il suo corre Z? No, corre I. No, corre Z. Non mi ricordavo, è il corre Z. Chi è? Gli ho chiesto il suo corre Z, non me l'ha dato. Ma deve essere uno inutile, non lo sento. Boh, è finito, non rispondo. Ciao Luca, due mascherine, 39 euro. Dove li compareggi? E lì a quelli si rappianchi. Se vuoi le mascherine, non che la mia cugina me le fa lì. Cosa? Come cosa? Capito Natalia, me la fa la mia cugina a me intera. Lavabile, ma insomma la lavo infatti. Io ne ho comprato 10 di quelle da 4 euro in farmacia, quelle lavabili. Poi ne ho due pacchi da 20 di quelle normali, usa e getta. Ve le do io, 3 mascherine a 150 euro, un affare, dai. Cosa, Eugenio? Ve le do io le mascherine, 3 a 150 euro, un affare. Quelle sì che sono un affare. È morto Enzio Bosso, ragazzi. Oggi la musica italiana ha perso un grande maestro. Ciao a tutti, io salgo a Sassari, ciao! A Sassari stai salendo. Cosa, Natali? Sassari stai salendo. E adesso sei da Sassari. Ciao. Ciao Riccardi, ciao ciao. Gabba gabba. Positivo e davanti che gabba gabba. Signora. Ci sei Riccardino? Riccardino. Aveva un difetto alla macchina. Non lo so. Che gli trasferiva del rumore nel coso, nell'apparato. Ha smesso per quello. Che è bello, finito hai. Ma di smetterla, sì. Che regaba. Che regaba. Se gli metto l'eco cose qua in questo... l'elicottero. Ah, nel tuo. E in questo qui, l'eco cose gli metto. A me. Ma qui sta Zara Dresso. Gigante minore, ma ancora scheda ci sarà. Sono ti metti lui e fai i due gaba gaba. Non mi sono venuti bene. Ne ha uno Gianni che era di Gigino, il vulcano. Cazzo, allora come interrogazio i ragazzi. Dice che non è neanche schiumato quello, si vede tutto. Sì, quello di Gigino. Quello che c'ha Gianni, allora, era di Gigino, era. Cazzo. Ricordo due volte, ma lo sai quanto si intendia. Lo facevo girare un bel. Io e Gigino lo facevamo andare forte quel baracchino. Tipo Camagaba. Se facevo così guai. Camagaba. Poi c'aveva l'elicottero, cazzo di rave davvero. Potevi andare nel canale dei grandi modulatori. Quello sicuro che sto piantando due rame alla macchinetta, per gli capelli, aspetta. Gli ho cambiato le rame, perfetta. Camagaba, allora. Camagaba. Se ne ho comprato uno, l'ho pagato un casino di soldi. Di quelle macchinette così. Del sasso di però. Ah, questa qua guarda poco, poi ho preso una su internet, bella, va bella veramente, di 12 euro, che ti puoi fare anche la barba sotto la doccia. No, ho capito. Questa è Tech One Technology, modello 50-50. Questa qui è cavagava vero, però. Cocomane, no. Per i cocomani questa. Io resto. Ah, io ho pagato a poco, ma ti posso garantire che è una meraviglia. Ne avevo una che l'avevo regalata a Alessio, l'avevo regalata, una bella, mi incazzavano tanto tagliato. Quella era cinese, era cinesina quella, cazzo, ma arrogante la vedda, tagliava benissimo. Siccome io non ne usavo, l'avevo regalata a Alessio. E a quel porcuomo me l'avevo regalata. Che regalo! C'è la regolazione delle lame più il coso, i pezzinini quelli. Sì, sì. E quello ho comprato al cane, 50 euro l'ho pagata, bella, noi Bugundaglia. Passo domani togliamo prima quella della 25, il cane e poi il mio. Quella copomane di luna deve tosare. E allora? Se non si. Vedi lì, sin qui bisogna se uno la deve mantenere la sudaglia. Ma come gli rimane fermo? Quella cane è copomane. Io non lo posso così, è già tossito di passe. Ecco la ridda. Tanto va già 5 anni il mio. Luna ne fa 12. 4 operazioni gli hanno fatto, poverino. Pagata. Sta qua 12 anni, Si vede sul biglietto, baracchino, sul microfono, poi quando mandano le connessioni. Vediamo un po', ci avete mandato un'oretta quel tipo, vediamo. Che è passata un'oretta. Sono le 10.25. Ragazzi. Ringrazio. Non so quelli continentali, un'oretta volte la contare. Un'oretta la conto, dalle 9.07 alle 17. Poi, ho fatto gli incontri mai io. E intendi. Questa è quella dei cinesi. Ragazzi. Faccio sentire la mia, va. Assistente. Puglia. Ah, questo qui è 1,6, 1,2 e 2 mm i capelli lì. Va bene. Ragazza. E me la tagliere il vito o no, smetto? No, solo guardo. Avevo in carica il telefono, ce l'avevo, capito? La carico. Caracara. Io l'ho visto, eccolo qua. Quello lì stavi dicendo? Questo qui stavo dicendo, allora. Che faccia sappi? Lui. Questo cosa stavi dicendo? Me faccia sappi. Ci siamo sovramodulati. Siamo in due. Tu cosa ci siamo in dieci? Allora, ho detto, me faccia sappi. Un minuto, un secondo di ritardo, cioè da quando schiacci la portante, e poi esci. Questa è l'altra invece, senti, questa è bella, VGR, ma bella veramente, da quello che l'ho pagata, guarda, è piccolina ma bella. Silenziosa pure. Silenziosa pure, ho detto. Che dura. Quando ci voglio questa qua lo carica come il telefono, è uguale, c'è la batteria uguale al telefono. Ah, cappa. E la stazione saldante non l'hai aggiustata? No, è andata lì, negativo. Ma a te serve l'aria a casa, ti serve, o proprio lo stiletto? Lo stiletto, l'aria calda serve per gli SMD, per scaldare quel tubetto termorestringente, può servire, l'aria calda serve per quello. No, l'ho aggiustato, non so cosa abbia, mi dà questo errore, trattino 5, non so cosa sia, guardato su internet, ma... Non aggiungo più grande di smontare, fa, finito, perché è un casino, devo smontare tutti i vini, fili e filetti, e diciamo che c'è la scheda un po' cotta, là. Io un saldatore già ce l'ho per il momento, uno a 30 watt ne ho. E io, c'ho l'aspirastagno, risalda, dove? Va bene, già per quello che ho pagato, già fa il suo dovere. faccio due stiletti, quello che fa 30 fa 120. No, il mio non è regolabile, il mio è fisso. Sarà una stazione saldante, ma sarà di quelle da 13. No, questa che ho io già me ne ha fatto di anni, questa l'ho regalata a Marina per il compleanno, o a Natale se non mi ricordo. Prego. È stato un brezzo. Ti sento, chi sei, Riccardino? Sì, poco sì. È un pochino. Che ragazza. E poi c'ho la filastagno, quella pistola Natale, la macchinetta. Cazzo, ma quello non l'ho mai né visto né usato, io ho la pompetta. Ce l'avevo quella pompetta lì, e chissà che ce ne ha fatto. Smetto, ce l'avrei anche mi, solo che non è marcato CE e non puoi fare niente. C'ho un accordatore della NFG che ho già avuto un bel disinato, però non lo puoi usare perché non è robotini attaccato, ma se no te ne usi qui freccia. Infatti quello me lo vendo. Non ti ho capito, non lì, cosa hai detto? Stavo dicendo che io un rosmetro ce l'ho anche, però non lo puoi usare perché non è marcato CE. Infatti me lo vendo quello e me lo compro marcato CE. Ma Riccardino, cosa? Riccardino, come mai stai parlando a voce bassa? No, sono neanche a voce bassa, sto parlando normalmente. Prima ero un po' più rauco, adesso sto parlando meglio. A studiare non ci vai più invece di stare sempre attaccato alla radio? Io prima il dovere e poi il piacere, stamattina ho già fatto tutto. Ah, meno male, cerca di studiare, lasciate il baracchino, capito? Buongiorno. E vincerai, è a puntino da riposo. Questo lo dice lui, però già voglio chiedere a Sergio a vedere se sta studiando. La Mazzano Bisso attaccata al baracchino, com'è questa storia? Vai, chiedi. Già mi fido. Fidare, Cla, chiedi a Sergio a vedere se sta studiando. Claudio. E io stavo saldando le lampadine dello Smith a questa radio. Bello, sempre illuminati ce li ha adesso sì. Ma dello Smith sono. Ma io spegnete la radio che mi avete svegliato. Mamma mia, l'altro è entrato, è rovinati siamo. Ciao Massimiliano. Ciao Natalino, ciao Claudio, ciao Luca. Ciao Massimiliano, è Franco, ciao Franco. Sei dormito ancora Natalino? Sì, Franco, scusa, mi sono confuso nel confondermi. Chi è? Dai, ti dimentichi di me. Devi salutare tu. No, mi stava salutando comunque, ciao Franco. Franco, non senti a Riccardino? A chi? A Riccardino, non lo senti? No, negativo. Prova Riccardino, fa, chiama. Franco, mi senti? 1, 2, 3, prova radio. Non arrivi a sorso, allucinante. Non lo so. Oh Luca! Sì, a Franco, dimmi. Ciao Connex, esce in banda tutto quanto e non esce in AM. Esce in banda e non esce in FM, esce. No, negativo, né in FM né in AM. Non sale lo Smith. Che strano. Saranno i finali, ma vabbè, se esce in banda. Abbiamo uscito. Commutatore, relè di commutazione di banda. Selettore di banda, chiamasi selettore di banda. No, è a posto quello, è che non lo so. Ma quale commutatore stai dicendo, Cla? A te, beh, lasci la polvere in occhi, a vostra Roaiana, adora, sì. Allora, c'è un relè, hai capito? C'è un relè all'interno, dovresti saperlo, visto che i baracchini già li conosci a pelle. C'è un relè, se quello non commuta, se quello non aggancia, non funziona, non ti dà né ricezione né trasmissione. Hai un relè, non ha giudico dentro. E ti pari a te, hai canti in unghia, meno reddo, io a te, non ti preoccupare, io a te. Ma come come fa a commutare le bande? Ci deve essere per forza. E lascialo lì, i nuovi uscini che già c'è. E ve ne è più di uno, buro. Più di uno ve ne è. Non hai mai visto il chemo d'aperto? Se c'è una parte solo per i veleni. Allora, io l'ho sostituito, uno, perché non mi commutava dai 10 ai 40 ai 20. Capito? Non ti funziona né in M né in FM. Ne avevo una spinta nel 440 di quelli. A chi li capisce? Ci vuole un consiglio, non lo toccare. Non lo toccare. Farò vedere a chi ne capisce, hai detto bene. Perché se sbagli li paghi, ma paghi forte, ti rompi la radio. Ehi, non te ne dico, non te ne dico lunga. Si imbaglia ed è destinato al mutinaggio. Che la bici è poco che guadagno, bravo. Poi, non guardi mai quella bella lì, a mai da, dopo fatica vai a pulire la vendì. Queste sono cose vostre, io anche se un baracchino vale zero, guarda, sono tutta la mattina cambiando la lampadina a questo standard, ok? Può valere zero, però per me vale tanto, perché è una bella radio vintage. Ho messo la lampadina. Adesso la sto chiudendo, non mi ha rubito pure la balla, che mi sono divide in due che balla. Ieri sera sono andato a attaccarlo e non è partito più. Solo in banda funziona, ma stanno in varia. Perché è René, sicuramente è René. Ah boh, io ho pensato ai finali, però vedendo io, se c'è un baretto. Vediamo un po'. Cosa vuoi? Che ti dica? No, già ne ho, già. L'importante è che funzioni questo. No, io non lo faccio di dolce, attaccati devi funzionare tutto, non è come ti ripeto. E infatti adesso c'è voluto ti mando la foto, ma se tre strumenti, bene. Oh, e c'è lì. Ecco qua. Va bene, funziona. Riccardino, ci sei? Ci sono. Ma quale macchina stai usando? Il Colt, lo 7 Nebaglio. Ma il Mikey Gainer manetta, Cosa? Ho detto, il Mikey Gainer manetta. No, non è manetta. Metti una manetta. La modulazione, mi. Ho capito. Provo, fa un passaggio. Tre prove, è tutto al massimo adesso. Ma che microfono stai usando, quello normale? Sto usando lo 7 Nebaglio, il Colt, Black Shadow. Sì, già lo conosco bene quella radio, già che l'ho avuto anch'io. Ho detto, come microfono cosa stai usando, quello normale suo? Ah, sì, quello originale, non si sta a Sì, va bene, dai, non è male. Aspetta, quando ti arriva l'amplificato, poi provi. Devo vedere se va bene, devo modificarlo anche, perché per l'altro, per lo Stalker non andava bene, lo dovete modificare. Cappa. Aspetta un attimo, lo carico, sto calando lo smitter di una radio di quelle come quella, questo è uno standard, ok, questo è uno standard di M700, aspetta un attimo, sto calando lo smitter, ok, va bene. Segnalaci uguale. Bene che va. Sì, uguale. Ciao Giulio. Sì, stavo regolando lo smitter, stavo leggendo il manuale, si può regolare lo smitter perché era troppo alto. Arrivavate troppo forti, adesso l'ho regolato di giusto, eh? Tuo segnale anche con l'altro uguale. Buongiorno. Ciao Claudio, aspetta che mi sposto anche il microfono, ecco. Me lo metto in posizione più comoda. Sì. E vabbè. Quante volte è quel baracchino? Allora, questo baracchino c'ha tre posizioni, c'ha 3 watt, 10 watt e 20 watt. Ho capito. Adesso è 9,2, 9,3, là, più o meno, di segnale. Prova le altre potenze. Allora, questa è 20 watt, questa è 10 watt, eccolo qua, allora questa è 10 watt, ecco qua 10 watt, questa è 20 watt, il massimo HI, c'è scritto HI, e sullo strumento segna quasi 20 watt. Molta differenza c'è da 10 watt a 20 watt? Sì, da 10 watt a 20 watt, da 9 e 10 passa a 9 e 12, mentre invece con i watt più bassi 9 e 2, 9 e 3, là, siamo lì. Sì, a voglia, dai, così la lasciamo, allora in HI la mettiamo, c'è RF out. 10 watt HI, quindi HI vuol dire che è il massimo, ok, va bene, no, già funziona bene, dai, la modulazione già è buona, già viaggia, dai. Sì, la modulazione è sempre quella, non c'è niente da dire, va bene, no, ma comunque è ottimo, comunque avere tre potenze così è ottimo, è interessante. Perché così almeno in caso di necessità puoi abbassare o aumentare e va benissimo così. Bene, bene. Io sto uscendo con pochi watt. Ma ho sbagliato anche perché l'ho senza occhiale. Allora, 1 watt, 3 watt, 10 watt HI. Quindi c'ha 4 potenze, non 3, no. 4 potenze. Allora pongo a 1 watt, riesci a vedere? Allora, così a 1 watt. 1 watt. A 2 watt. Mi senti? Sì che ti sento, quello è 9 appena abbondante. Ehi, sugar. Buona. 9 watt. 9, Santiago 9, va bene. 1 watt, 3 watt, ti faccio la foto del potenziometro. 1 watt, 3 watt, 10 watt HI. Sì. No, va bene, grazie per te, va bene, altro che tieni sempre in considerazione la mia antenna, oltre a quella tua, tieni sempre in considerazione la mia antenna, che è sempre bassa, per cui se la dovessi sollevare o spostare, allora il discorso cambierebbe anche, ne sono più che sicuro. Sì, sicuramente, guarda, te lo mando, giusto per farti capire, ma ne raccontano. C'è picchia che ti sto mandando la foto proprio del potenziometro, ok, io manda, eccola qua, te la sto mandando, così la vedi. Ok, sì, ce l'ho sotto carica al telefono, che la scarico di batteria. Chi è che si chiama? Avanti. Scusa, sto sempre sbagliando e non voglio aspettare. Ti volevo chiedere a Claudio se conosci, non conosci tanto, la stazione base Midland, quella con i bordi di legno, quella lunga. Sì, io ne ho avuto tante, Riccardi, negli anni che furono di baracchini vecchi, vintage. Infatti ieri sono andato, dovevo andare a Olbia per lavoro, ma ne ho preso un'altra da un signore di Olbia, uno standard DX700, che sto usando, capito, sto usando quello, anch'io sono appassionato di vintage e non pensare che solo perché sono grande di età e ho mollato, no, a me piacciono molto le radio vecchie, quindi. E l'ho avuta quella lì, l'ho avuta, una bellissima radio. Non mi soddisfava molto come ricevitore. Mi piace più come ricevitore l'altra che c'hai. Quella io l'ho avuta, non è che sia una grande eccezionale, lì, come dice qualcuno, ho capito. Però dai, già va bene lo stesso, non ti preoccupare. Ottimo per la truppa. Avanti, chi c'è? Natalino c'è anche? Natalino, ci sei ancora? Sì, sono qua. Ehi, Natalino, non dai un colpo, non mi avete sentito. Buongiorno a todos. Sono al computer, capito, stavo guardando roba, ma... ho capito, vabbè, si è al computer, in apparato, sì. Oh, ciao Riccardo, ascolta Riccardo, stai usando il valvolare in questo momento? No, negativo, il valvolare qui vicino a me però non lo sto usando, adesso sto usando il colpo. Ok, perché ho notato la cosa ieri, che col valvolare arrivavi più forte, arrivavi dopo che hanno scaldato le valvole naturalmente, perché si sa prima devono scaldare un po' le valvole. Va bene, va bene, ok. Avanti qua. Ci stavo mettendo a posto qua, io ho messo le lampadine, un casino a mettere quelle lampadine, non entravano le dita, piano piano, con la pinzetta, cioè quelle lampadine dello smitter giù, di quelle a incasso col portalampade, metti pochissimi la macchina, mamma mia, ogni casino a metterla, perché il portalampade poi non l'ho voluto togliere, perché hanno degli incassi particolari di plastica, se si rompono quelli addio. Allora piano piano l'ho messa, comunque adesso sono tutte e tre accese di smitter, tutto verde, anche di smitter. Ok, qua, quando la patina è a baionetta, così chiamate, oppure ci sono quelle altre micro, con l'attacco micro, ci sono, poi ci sono quelle con l'attacco a siluro, e vabbè, prima la lampadina erano così, oggi invece è tutta una diversa musica, soprattutto perché si utilizzano molto i LED, eccetera, eccetera. Va bene, comunque anche in caso di diciamo così, di malfunzionamento del portalampade, ci possono prendere le lampadine e si salda un filo, uno alla parte della vite dove c'è la pletatura e uno al centro e funziona lo stesso. Interessante fare una buona saldatura senza rovinare la lampadina di Upio. Va bene, già è tutto fattibilissimo, non è un problema. Avanti Riccardo. Stavo ancora riscaldando le valvole e quindi l'ho usata un pochino all'inizio, avevano scaldato poco, se no già andava bene, già va bene. Sì, già lo so, no, ma io me ne sono accorto subito ieri che stavi usando quello con le valvole, perché si è partito con un segnale e poi si è salito, dopo alcuni minuti si è salito il segnale, per cui ho pensato, sta usando il baracchino valvolare e quello è dovuto al riscaldamento delle valvole, perché se non riscaldano le valvole non possono avere la massima emissione di RF. Va bene, avanti qua. Certo, anch'io lo lascio un po' acceso il DAC sempre, perché anch'io ne ho uno grande a valvolare, con lo stadio finale a valvole, transistorizzato, una radio ibrida, però c'è lo stadio finale a valvole, e quando la devo andare in trasmissione lascio un attimino accesa, un quarto d'ora così, in modo che la tensione dell'anodica sulla valvola sia perfetta, e poi vado in trasmissione. Non andare mai in trasmissione appena accendi la radio col valvolare, perché puoi fare danno, capito? Ma ce l'hanno scippato nel tuo caso? Sì, me l'hanno scippato. Davvero? Davvero sì, davvero. KK. Vabbè, neanche una bella Tonino di radio, molto bella. Tonino, ci sei? Stavo parlando ieri notte, sono andato a vedere su internet, molto bella, sì, veramente molto bella. Ehi, negli anni passati avevo anche la Saturnecco col TAV più 3 che usciva in una maniera meravigliosa quando abitava nella città vecchia, diciamo così, nella sassa di vecchio. Sì. Riccardo, hai capito quello che ti ha detto Claudio riguardo alle valvole? Prima di utilizzarlo, accendilo e fanno scaldare 10 minuti o 4 ore, dopodiché lo puoi utilizzare. Hai capito, Riccardo? Sì, già ho capito, grazie. Ma le valvole, più o meno, quanto durano? Tutto dipende dal tuo uso, Riccardo. Quello è uso e manutenzione. Perché la valvola più viene sfruttata e più cala di tensione, ok? Poi chiaramente un baracchino valvolare, Giulio mi segna che va manutenzionato ogni tanto, non certo però ogni 6-7 mesi va aperto, sempre a corrente staccata, mi raccomando, c'è una tensione a 220 lì, fai da bravo, non toccare niente, fai fare a babbo, vanno tutti notte, levavo, l'ho pulita la base dei piedini con la trielina, ben asciugata, pulite bene le valvole, lucidate, rimesse, perché se la valvola carica polvere, carica umidità, abbassa di tensione, quindi deve essere sempre ordinata e pulita, capito? E poi, meno la sfrutti e meglio è. Se una radio regolabile che dà 10 watt sulla nudica della valvola, meno ne dai di potenza e più le valvole ti durano. È come quando hai una bottiglia piena, se te la bevi tutta in fretta poi la devi riempire di nuovo, Riccardo, capito? Sì, ho capito, ma se tipo se ne voglio comprare delle altre, dove si trovano a Sassari? A Sassari penso che non trovi niente, no? Io fortunatamente sono stato fortunato, me li ha procurate Gianni Capri 2 del DAC, infatti ho detto valvolare non ne prendo più, e quindi come vintage io c'ho tutto transistorizzato, un par di palle, nel senso buono, perché anche questo è a quarzi, sono tutti quarzati, capito? Perché i quarzi in linea di massima chi fa collezione, i collezionisti ce li hanno sempre, ma le valvole stanno un po' andando a cadere, capito? Ti consiglio, se compri stazioni base vintage, vai sempre sul transistorizzato, non comprare valvolari, perché i valvolari se li usi vanno bene, ma se non li usi poi ci rimetti le valvole, come ho fatto io 2-3 volte col DAC che era sempre dentro l'armadio, e poi a trovare le valvole è molto molto difficile, capito? Riprendi e fai girare per Giulia. Ok, va bene. Non l'avevo salutato a Giulio quando era entrato in Saudio, cambio per te. Non è un problema, Riccardo, figurati. Sì, ma è così, le valvole diciamo che funzionano quasi all'infinito, però si esauriscono e esaurendosi naturalmente non ti danno la massima resa. Ecco qual è la situazione. Stai attento, non aprire mai il coperchio, come ti ha detto Claudio, perché lì dentro c'è la corrente di 230 volt, per cui stai attento, non ci mettere mai le mani, stacca sempre la spina prima del baracchino. Va bene, anzi, non lo fare nemmeno tu quel lavoro, fallo fare tuo padre quando è necessario. Sì, poi c'è da considerare questo, che le valvole hanno un certo costo, oltre al fatto che oggi sono quasi introvabili, già si trova qualcosa, però devi fare ordine, trovare il negozio che ancora ce l'abbia, qualche fornitura di valvole, insomma diventa un po' complicato. Chiaramente allora a quel punto lì uno cosa fa? Molta gente che rinuncia ad avere apparecchiature a valvole preferisce il transistorizzato. Tutto lì, anche perché con le valvole è più costoso, perché quando si esauriscono le valvole, allora intanto qui a Sassari non trovi niente, e poi devi ordinare e costano anche, perché con la scusa che sono quasi introvabili se ne fanno pagare anche molto. Sicuramente quel baracchino che hai avrà come valvola finale la L84 di solito, o è così, però non è detto, può essere anche un'altra valvola, finale. Vediamo Natalino, Natalì, avanti, finito ecco questo computer. Stavo lavorando qua, cosa devo dire? Le valvole sono una brutta bestia, una volta stavo togliendo la valvola e mi sono defibrillato da solo. Diamo quello, no, non si scherza, con la corrente elettrica non si scherza, per cui non è cosa da fare, soprattutto chi non ha una certa dimestichezza nel metterci le mani all'interno di un apparato. Ripeto, bisogna sempre staccare la spina, sempre, senza mai dimenticarsene. Perciò quella è la prima cosa da fare, spegnere il potenziometro e staccare la spina. Avanti qua. E aggiungi anche lasciare scaricare la tensione, perché tu mi insegni che appena stacchi la spina la tensione c'è ancora, bisogna lasciare scaricare la tensione per almeno una mezz'oretta, in modo che sulla nodica della valvola non ci sia più tensione, perché poi va piano piano e si scarica da basso, se tu stacchi la spina, la radio era accesa e vai a toccare la valvola, ancora c'è tensione. Dobbiamo stare molto molto attenti. Molto molto attenti. Io quando ho fatto il DAC ho staccato la spina dal giorno prima, perché ce l'avevo acceso, quindi l'ho staccata il giorno prima e l'ho fatto l'indomani, con calma, tutto bello aperto, pulito, e adesso è eccezionale, funziona alla grande, ma molto bene. Ok, adesso sto provando questi, poi magari più tardi commuto sul DAC, perché non c'ho più posizione sul commutatore. Uso questi due, lo standard e il Polmar, oppure uso il DAC col Polmar, c'è uno, lo devo tenere senza antenna, perché la posizione del 230, della T230 è a tre scatti, quindi no, non fa. Va bene, comunque Ricca, se compri, un consiglio che ti dà Claudio, se compri radio vintage, vai sui transistorizzati, non sbagli, ok? Perché un transistor costa 50 centesimi, un'ipotesi, una valvola ti può costare anche dalle 20 alle 30 euro, eh? Io quella che ho comprato, Giulio, la prima volta mi sono costate 50 euro, due dello stadio finale. Le 6JB6, che sono quelle fini, costano un patrimonio. Fortunatamente ce l'aveva allora viva ancora la signorina Giovanna, la Fusaro, e lei aveva una scatola con tutte le valvole immaginabili. Poi non aveva più, e allora me le ha procurate la seconda volta già nei Capri 2. Avanti Riccardo. Ok, sì, infatti è l'unico che abbiamo preso valvolare, non sapevo neanche costruire così tanto le valvole, e poi non sappiamo neanche se sono usate o non usate molto, perché abbiamo comprato un usato e questo è un apparecchio del 78 e non sappiamo come si può essere usato queste valvole. E anche questo è un apparato del 1968, lo standard, mentre invece il Polmar è del 75-76, del 68 è lì, bisogna vedere Giulio che valvole monta, perché il DAC mi sembra che sia più o meno del 70-72 e monta quelle lì, e sono introvabili, sono introvabili. Vabbè, glielo dici a babbo, lo staccate dalla corrente, togli il coperchio e ti leggi, intanto ti leggi già le sigle delle valvole, in modo che ce li hai già, Riccardo, capito? Vai giù. Ok, sì, beh certo, poi bisogna anche considerare se una radio americana ha le valvole generalmente di stampo americano, se invece una valvola italiana chiaramente è più facile trovare le corrispondenti. Premesso che anche le valvole americane ci sono le corrispondenti italiane che possono essere sostituenti di valvole americane, per cui non è un problema, però il costo è esagerato, se compri due valvole costa quanto è tutta la radio, per cui non so fino a che punto ne valga la pena comprare radio con valvola. Belle radio, tutto quello che vuoi, funzionano perfettamente, hanno una durata lunghissima, questo sì, però poi in fase di manutenzione sono molto ma molto costosi, per cui non è il caso di andare a cercare, è meglio andarsi alle cose più recenti, tipo il transistorizzato, così è più fattibile e anche più riparabile dal momento che si trovano meglio i componenti. Va bene, avanti Natalia. Lunghissime se trattate bene le valvole, hanno una durata, però come le valvole non viene specialmente ricezione. Hai il karaoke hai vicino. Va bene, sì, beh, in effetti vogliono trattate bene, ovvio, questo sì. Vabbè, comunque sì, diventano delle apparecchiature che mantengono un certo valore, ma solo perché sono vecchie, però in realtà tutto sommato le apparecchiature moderne di oggi, almeno sotto l'aspetto della qualità e soprattutto della manutenzione, eccetera, sono migliori. Perché? Perché oggi non si riesce a trovare quello che serve, proprio del valvole. Poi tutto il resto si trova, anzi è intercambiabile con altri componenti, tipo condensatori, resistenze e quant'altro. Però il discorso rimane sempre quello, le valvole sono oggi, è difficile trovarle, per cui va bene, avanti qua. Sì, K, infatti sono molto difficili. Io sul DAC le originali erano Svetlana. Chiaramente non trovando più quelle sono andato su altri tipi di valvole che però non hanno la resa che aveva prima.